le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tsipras annuncia: abbiamo presentato una proposta ai creditori, ancora nessun dettaglio, nel frattempo salgono i rendimenti dei titoli di Stato. Resta alta la tensione nel PD, all'indomani del voto è attesa sul caso De Luca, effetto giorno parleremo col neo presidente pugliese Emiliano. Tragedia sul fiume Yangtze in Cina, affonda un traghetto, oltre 400 dispersi, salvate una dozzina di persone. Appena rieletto già trema di nuovo, le indagini sulla FIFA lambiscono Blatter, sempre più da vicino, accuse al segretario generale che però smentisce. Migliaia di persone in piazza per la parata militare del 2 giugno, festa della Repubblica. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra sezione sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. Oggi vi trasmettiamo da Trento per la giornata conclusiva del Festival dell'Economia e se volete, se siete a Trento, potete venirci a trovare nel nostro stand, lo stand di Radio 24 in piazza Pasi. Tra un attimo parleremo di Grecia e poi torneremo sulle amministrative, come vi abbiamo detto, sentiremo anche il neo presidente pugliese Michele Emiliano e però abbiamo deciso in questa giornata di aprire raccontandovi qualcosa. Che cosa? Il secondo campo profughi più grande del mondo, il campo profughi dove ci sono i siriani in Giordania a Zaatari e dove è andata la nostra inviata Valentina Furlanetto. Ecco il racconto. Se volete un gelato da Ahmed, gelataio e capofamiglia a 13 anni al campo profughi di Zaatari, dovete aspettare il pomeriggio, perché in mattinata Ahmed deve badare i tre fratelli mentre la madre è al lavoro e poi lavora a sua volta, porta avanti e indietro una carriola per circa 2 dinari giordani al giorno, 1,60 euro. Oppure, appunto, vende il gelato per strada ad altri bambini come lui. Ahmed Nidar Jbawi, ismi. إلي إلي بالمخيم سنة ونص من درعا نخل. Non posso andare a scuola perché devo badare alla famiglia, devo lavorare. Sì, in Siria andavo a scuola. La mia materia preferita era matematica. Volevo diventare un insegnante di matematica. Andrea Iacomini, portavoce UNICEF Italia, in visita a Zaatari. Che posso definire come il campo della grande diaspora siriana. Il campo di Zaatari è davvero una città che è cresciuta con gli anni, dal 2012, quando oramai da poche migliaia di persone è diventato la quarta città più grande della Giordania. È una città che vive a sé, è una città che ha i suoi negozi, è una città che ha le sue case, i suoi container, è una città che ha i suoi ospedali e le sue scuole. Lasciamo Zaatari, il secondo più grande campo profughi al mondo. Andiamo verso nord, a Tal Shiab, zona militare, sul confine fra Siria e Giordania. A 100 metri da noi sventola la bandiera del Free Syrian Army. Soltanto oggi 2 bombe sono scoppiate a 7 e 9 chilometri dal confine. La frontiera è chiusa ufficialmente, ma c'è un passaggio non ufficiale per l'accesso dei feriti. All'inizio eravamo soltanto noi qui ad accogliere i feriti, i rifugiati, donne che aspettavano bambini, dice il generale Hassan della brigata che controlla la frontiera. Poi è arrivato l'UNICEF e altre associazioni. E poi, quando credi di aver visto tutto quello che di brutto il conflitto ha riversato in Giordania, in una stanzetta di un centro di riabilitazione di Amman, incontri Sami, che ha 13 anni, ci vede solo da un occhio, entrambe le gambe sono amputate. Come lui, Mustafa, 15 anni, di Dara, è stato colpito da una bomba mentre giocava a calcio. Sono qui da 6 mesi, dice. Mia madre e mia sorella sono ancora lì. Mi è stato concesso il permesso di passare il confine con mio padre. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amman, Giordania. E questo è il racconto della nostra inviata Valentina Furlanetto. Veniamo alla più pura cronaca, iniziando dalla Grecia, da dove sarebbe arrivata una proposta per i creditori, da Tsipras, e però i dettagli, ancora una volta, ancora non ci sono. Vittorio Darold del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, che cosa sappiamo? Effettivamente la situazione ha un po' preso in contropiede tutti gli analisti e i mercati, perché ci si aspettava un programma, un piano da parte dei creditori che si erano radunati ieri sera a Berlino. C'era l'Unione Europea, il Presidente della Commissione Europea Juncker, il Presidente della BCE Mario Draghi e i rappresentanti del Fondo Monetario Christine Lagarde, oltre al Cancelliere tedesco Angela Merkel e al Presidente francese François Hollande. Tutti per preparare appunto un piano che avrebbe dovuto trovare una mediazione con Atene. Invece questa mattina Atene ha preso in contropiede tutti dicendo che c'è un piano greco che però non ha ancora fornito i dettagli. Probabilmente la situazione è ancora una volta giocata su un aumento delle imposte, si parla di un aumento dell'IVA con l'eliminazione della speciale esenzione per le isole e una riduzione delle pensioni, soprattutto i prepensionamenti e alcuni speciali che ancora hanno delle deroghe alle leggi, diciamo, generali di andate in pensione a 67 anni. In più ci sarebbe invece una controparte per Atene, che sarebbe quella di una riduzione del surplus primario, che dal 4,5 passerebbe all'1,5% annuo. Questo potrebbe essere il quadro dell'accordo, però ancora non ci sono i dettagli. I mercati si stanno un po' innervosendo e i rendimenti dei titoli delle obbligazioni sono salite, segno che il mercato in questo momento non crede alla possibilità di un accordo almeno a breve. E sulla Grecia è tutto, a te Simone. Grazie Vittorio Darold del Sole 24 Ore per questi aggiornamenti che proseguiranno nell'arco della giornata. Vi ricordo ancora che siamo in diretta dal Festival dell'Economia di Trento e questo pomeriggio torneremo a parlare di Grecia in Focus Economia, sempre da questa postazione. Noi passiamo alla politica, con le elezioni regionali che continuano a pesare sul dibattito politico, ad alimentare tensioni, soprattutto all'interno del Partito Democratico. Elisabetta Fiorito, le ultime quali sono? Buongiorno. Sì, buongiorno Simone, proprio così, lo scontro si paleserà nel PD alla prossima settimana nella direzione nazionale. Intanto Matteo Renzi si rifugia nel suo ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio, ieri in Afghanistan a visitare le truppe, oggi alla parata militare del 2 giugno accanto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il messaggio ai dissidenti Dem però è chiaro, nessuno pensi ad elezioni anticipate. Avanti fino al 2018, il vice segretario PD Lorenzo Guerini poi lo ribadisce, la sinistra decida dove andare, Mattini, Mancini non ne vogliamo più. Dalla minoranza Dem però invece si pensa anche a un ribaltone, soprattutto su un tema caldo come la scuola. Per Roberto Speranza è una riforma che ha tolto al PD moltissimi voti e magari la minoranza sogna Palazzo Chigi, un Del Rio o un Orlando, uomini di carattere più mansueto rispetto al Premier. Nello scontro c'è anche il centrodestra tra il vincente Matteo Salvini della Lega e il perdente Silvio Berlusconi con Forza Italia, che chiede proprio a Salvini di fare squadra, ma c'è l'incognita di Luca Zaia che dopo il successo della sua lista civica potrebbe insidiare lo stesso Salvini nella leadership della Lega. I 5 Stelle dal canto loro esultano, per Beppe Grillo queste regionali hanno dimostrato che il movimento ha messo radici, ma niente alleanze. Da sinistra Nicky Vendola pensa ad un movimento per combattere il renzismo, ma l'ex governatore della Liguria Claudio Burlando lo gela, non c'è spazio a sinistra o comunque molto marginale. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Nel frattempo c'è stato ieri lo spoglio per le comunali, e molti comuni andranno al ballottaggio, compresa Venezia, e però nel frattempo emergono anche delle storie interessanti. Di quella di Platì, comune calabrese, vi abbiamo parlato, non c'è stato nessun candidato e resta il commissario, e resta il commissario in un altro dei comuni simbolo dell'infiltrazione dell''ndrangheta, ossia San Luca. Perché? Perché in questo caso la gente non è andata a votare, non si è raggiunto il quorum. Abbiamo in linea per un commento Roberto Galullo del Sole 24 Ore. Roberto, buongiorno. Buongiorno a te e a tutti i radioascoltatori. Cosa rappresenta tutto questo, Roberto? Ma allora, la riflessione immediata e semplice è questo qui. Ma se nei comuni non si presenta una politica credibile, come è pensabile e auspicabile che si presentino gli elettori al voto? Allora, noi abbiamo la T dove non si è presentato nessuno, vale a dire la politica ha deciso di abdicare al commissariamento il ruolo di governare un comune. A San Luca è mancato il quorum, lo dicevi tu prima, e quindi l'unica lista non ha raggiunto neppure il 50%. Ma questa condizione è una condizione tipica della Calabria, dove oramai la politica ha abdicato il suo ruolo ad altri, a soggetti esterni, terzi, che spesso sono rappresentati dallo Stato. Mentre noi parliamo di Platia e San Luca, caro Simone, noi abbiamo tre comuni di una straordinaria importanza, e tu sai bene il perché: San Ferdinando, Rosarno e Gioia Tauro. E il motivo è che sono i tre comuni sui quali insiste il porto di Gioia Tauro, che sono tutti e tre commissariati. Il commissariamento ormai in Calabria è uno stato di fatto, non soltanto nei comuni, ma anche, lo sappiamo, nel passato per le ASL, per la gestione dei rifiuti, dell'acqua e via dicendo. Quindi c'è una assenza totale di una politica credibile. In questo stato di cose è impensabile che si possa tornare seriamente al voto. Grazie a Roberto Galullo del Sole 24 Ore per questa analisi, e saluto Gino Scaccia, docente di diritto costituzionale alla Luis Guido Carli di Roma. Professore, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Con noi per parlare del caso De Luca, che in queste ore, eletto presidente della Campania, ma colpito per così dire dalla legge Severino a causa della condanna che c'è su di lui, si sta affrettando a fare la giunta per di fatto avere un vicepresidente che lo possa sostituire in quelli che si pensa che siano 18 mesi di sospensione. Professore, succederà esattamente questo, cioè verrà sospeso per 18 mesi De Luca, e poi che cosa succederà? Perché la storia dei ricorsi di questi mesi di applicazione della legge Severino ci hanno insegnato che non è tutto così immediato. Cosa dice? C'è un intreccio normativo e giurisprudenziale. Intanto non viene in rilievo soltanto la cosiddetta legge Severino, in realtà è un decreto legislativo, ma diciamo la legge Severino, ma anche lo statuto della regione. Perché lo statuto prevede che il presidente nella sua seduta di insediamento esponga il programma alla giunta regionale e al consiglio, e poi stabilisce che il consiglio debba nei 10 giorni successivi dare il proprio gradimento sia sul programma sia sulla nomina dei componenti della giunta. Questo vuol dire che già non è immediata questa nomina alla quale sta pensando, se ci sta pensando il neo presidente, dovrà intanto decorrere questo tempo per la proclamazione. Poi sì, c'è da considerare un adempimento formale: non appena sarà dichiarata la proclamazione dalla Corte d'Appello, la cancelleria del Tribunale dovrà avvertire, dare una comunicazione formale al Presidente del Consiglio che sussiste una condizione di appunto la condizione prevista dalla legge Severino. A questo punto il Presidente del Consiglio non ha altra scelta se non, sentito il Ministro dell'Interno e il Ministro degli Affari Regionali, che in questo momento è lui stesso, che accertare la sospensione del allora, Presidente. Che cosa si può quindi prospettare? In questo tempo di fatto mi scusi, di fatto in questo tempo che intercorre tra queste comunicazioni, il Tribunale al Consiglio, il Consiglio sentito, il Presidente del Consiglio sentito, il Ministro dell'Interno, eccetera, in questo tempo De Luca deve fare la giunta, in sostanza, se vuole un suo vicepresidente. Sì, perché altrimenti c'è l'immediata sospensione e poi c'è un eventuale ricorso dinanzi alla giurisdizione ordinaria per far sospendere la sospensione. Scusate il bisticcio. Sì. Brevissimamente, questo, professore, perché abbiamo veramente pochi minuti, anzi pochi secondi in realtà. Che possibilità ci sono, visti i precedenti, che la sospensione venga sospesa? Non bisogna dimenticare che pende un giudizio di costituzionalità della legge Severino davanti alla Corte Costituzionale. Quindi, prima ipotesi, che il la Cassazione, quando si pronuncia, sospenda; seconda, che la Corte Costituzionale dichiari l'illegittimità della legge proprio nel punto in cui si applica a De Luca, che si è applicato in passato a De Magistris. La terza opzione è un'opzione legislativa, cioè un governo che interviene con un decreto legge urgente per apportare una modifica, un'integrazione alla legge Severino e prevedere questa possibilità di far nominare una giunta affinché resti in carica un vicepresidente comunque scelto dal presidente e non da soggetti che non sono stati votati. Da soggetti che non sono stati votati. Politicamente forse più complessa questa terza opzione. La ringrazio, grazie al professor Gino Scaccia, costituzionalista dell'Università Luis Guido Carli. Andiamo a chiudere questa prima parte raccontandovi quella che oggi è una giornata di festa, è la festa della Repubblica, la parata del 2 giugno, migliaia di persone in piazza a Roma. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così una festa che ha coinvolto veramente migliaia di persone, quella che si è svolta tra Colosseo, Via dei Fori Imperiali e Piazza Venezia, tanta la gente che è stretta attorno alle forze armate alla parata del 2 giugno, quest'anno 69esima festa della Repubblica, manifestazione che si è chiusa con il passaggio della fanfara dei bersaglieri e con i corazzieri a cavallo, in precedenza i reparti di esercito, marina, aeronautica ed arma dei carabinieri e poi i corpi armati non militari dello Stato, tra questi vigili del fuoco e protezione civile. Complessivamente tra militari e civili circa 3.400 uomini e donne. Omaggio particolare ai Marò, in questo caso ai fucilieri Girone e La Torre, coinvolti da più di 3 anni nel contenzioso con le autorità indiane. Le forze armate sanno e sapranno rispondere alle sfide emergenti, ha sottolineato il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricordato quanti si sono sacrificati anche con la vita durante il loro servizio. Festa dunque quella di oggi della Repubblica e qui in Via dei Fori Imperiali, in particolare dei militari, dei loro familiari e di tante persone comuni. Sentiamo allora qualche commento. È la nostra festa, festa di tutti gli italiani e siamo felici di potervi partecipare. Anche diciamo una battuta di pausa da tutti i giorni, da tutto quello che succede tutti i giorni. Oggi ci sentiamo più italiani del solito e siamo contenti di esserlo. Grazie. C'è un momento particolare, più bello degli altri, il passaggio delle frecce tricolori? Sì, il passaggio delle frecce tricolori è stato a dir poco stupendo. Sì, anche i vigili del fuoco sono stati stupendi, quindi... No, io è la prima volta, ho 55 anni, è la prima volta che è una cosa spettacolare. Sarà costata un po' alle tasche dello Stato, però non fa niente, ne è valsa la pena. Complimenti a chi ha organizzato e a tutti quanti. Viva l'Italia! E grazie al nostro Vincenzo Miglietta per questo racconto. Abbiamo una pausa, c'è il traffico, poi ci ritroveremo col Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e ci sono tutte le altre notizie a partire dall'indagine che riguarda la FIFA, passando per la tragedia sul fiume Yangtze in Cina. A tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Tsipras annuncia, abbiamo presentato una proposta ai creditori, ancora nessun dettaglio. Resta alta la tensione nel PD all'indomani del voto e attesa sul caso De Luca. Tragedia sul fiume Yangtze in Cina, affonda un traghetto, oltre 400 dispersi. Appena rieletto già trema di nuovo, le indagini sulla FIFA lambiscono direttamente lo staff di Blatter. Buongiorno a Michele Emiliano, neo presidente della Regione Puglia, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, ieri abbiamo provato ad averla in diretta nel nostro speciale che abbiamo fatto alle 18.30, abbiamo avuto qualche problema di linea, quindi vorrei ripartire da là, che poi è il tema di queste ore. Questa apertura che lei ha fatto ai 5 Stelle, addirittura dicendo, signori, se volete la Ricchia, che è la candidata presidente del Movimento 5 Stelle, che è stata la candidata presidente del Movimento 5 Stelle, potrebbe fare l'assessore all'ambiente. È una proposta in realtà che è stata già rigettata, Emiliano. Lei la lascia sul piatto? Sì, questa proposta rimane, perché non è una proposta, come è stato detto, legata ad alleanze politiche o a costruzione di coalizioni, ma è legata semplicemente a un problema di assunzione di responsabilità, nel senso che se noi condividiamo, come è possibile, la strategia rifiuti zero tra Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, mi è parso giusto e corretto che anche nella fase esecutiva il Movimento 5 Stelle, dopo aver concordato con noi le modalità di esecuzione di questa strategia, poi la realizzi in concreto, perché è evidente che presentarsi alle elezioni non può essere, come ho sentito dalle parole di Grillo e di altri esponenti del Movimento 5 Stelle, una sorta di diritto di tribuna nel quale si fanno delle proposte, poi ci sono degli altri, cioè noi poveri malcapitati, che ci occupiamo di implementare le decisioni. La politica non è solo avere delle idee, e anche implementarle. Quindi io continuerò con garbo, con molta pazienza e devo dire anche con molta fiducia, perché sono certo che ragionando prima o poi questo ghiaccio terribile che ingloba il Movimento 5 Stelle comincerà a sciogliersi, anche perché il loro elettorato è fatto anche di tantissime persone di buon senso che hanno voglia anche di vederle all'opera, perché sì. La politica è fatta anche di opere, non solo di idee. Sì. Senta Emiliano, a proposito di opere, così rimaniamo sul concreto, c'è uno snodo, no, in questo accordo che lei propone al Movimento 5 Stelle. Al di là della questione dei rifiuti zero, c'è la questione del TAP, la Trans Adriatic Pipeline, che è questo gasdotto, lo diciamo agli ascoltatori, che deve arrivare dall'Azerbaigian all'Italia. Ora c'è un approdo che a molti non piace, che è quello di San Foca, e però c'è anche il tema che il Movimento 5 Stelle dice: noi il TAP proprio non lo vogliamo. Lei da questo punto di vista cosa dice? Qual è la sua posizione? Io non so come si facciano la doccia i militanti del Movimento 5 Stelle e come riscaldino l'acqua. In Italia si riscalda prevalentemente col gas metano, e il metano viene utilizzato anche per altri utilizzi. Quindi evidentemente devono accettare l'idea che una nuova linea di approvvigionamento del gas alternativa a quello russo, dal punto di vista strategico, è importante. E quindi che un gasdotto ci debba essere non credo che sia possibile dubitarne. Quello che è sicuro però è che in questo momento l'approdo di San Foca non mi pare che abbia una giustificazione, cioè nessuno di noi, io stesso che ho vinto persino le elezioni, non ho ancora capito, perché nessuno lo ha spiegato, perché su 900 quasi chilometri di costa della Puglia deve arrivare questo gasdotto giusto sulla spiaggia, una delle spiagge più belle della Puglia. Se qualcuno fa la cortesia di spiegarlo ai pugliesi, può darsi che i pugliesi se ne facciano una ragione, come qualche volta diciamo. Se, altrimenti sembra un atto di prepotenza. Brevemente su questo, ha un'ipotesi di altro approdo da proporre a TAP? So con certezza che c'è un altro gasdotto identico già autorizzato in un'area diversa, quella di Otranto, e so anche che ci sono zone industriali purtroppo realizzate in passato sulla costa che sono già purtroppo compromesse, che quindi non avrebbero nessun particolare danno neanche d'immagine dalla presenza del gasdotto. Capisco che questo potrebbe ritardare la realizzazione dell'opera, provocare ulteriori costi di progettazione, ma mi chiedo, fare un'opera contro la volontà di un'intera regione, perché poi di questo si tratta, i pugliesi non se la ingoiano in questa maniera, è una cosa intelligente per un'azienda moderna che vuole convivere con una comunità? Quindi io, senza fare battaglie, diciamo così, né ideologiche né di principio, chiedo, spiegate perché proprio lì, perché se la cosa ha un senso, 4 milioni e 80 mila pugliesi capiranno e diranno va bene San Foca. Se questa cosa non ha spiegazione, è evidente che bisogna spostarlo, tutto qua. Senta, uscendo dalla Puglia e andando a livello nazionale, in queste ore se ne sono scritte tante sui suoi rapporti col Presidente del Consiglio, qual è lo stato delle cose dal suo punto di vista? Perché noi ci ricordiamo all'inizio dell'avventura di Renzi che eravate molto amici, lei era un accanito sostenitore dell'attuale Presidente del Consiglio, e poi iniziamo a leggere che i rapporti si sono incrinati. Ci dice qual è lo stato dei rapporti al momento politico, cioè non tra il Presidente della Regione Puglia e il Presidente del Consiglio, ma tra Michele Emiliano, alto rappresentante del PD, e il segretario del suo partito? Innanzitutto avete uno scoop, perché ieri sera alle 22:30 è arrivato dall'Afghanistan, credo, il messaggio del Presidente del Consiglio che si congratulava con me per la vittoria. Io l'ho accertato pochi minuti fa, e questo ovviamente mi ha fatto molto piacere. I rapporti tra di noi sono assolutamente cordiali, come sono sempre stati. Ovviamente ci possono essere state delle questioni politiche che ci vedono su un piano di discussione. Una è proprio il patto, probabilmente. L'altra potrebbe essere il DDL sulla scuola, dove condivido perfettamente l'impostazione del governo che tenta di, diciamo così, di mettere al centro della scuola il merito e le valutazioni di merito anche degli insegnanti, che debbono essere valutati come qualunque altro lavoratore. Ma soprattutto è importantissimo anche che la scuola assorba questi cambiamenti in modo da implementarli. Io so per esperienza che se impone a un mondo così compatto, con una tradizione così importante, un cambiamento che quel mondo non accetta, fallisce la riforma e perdi anche un blocco sociale, quello degli insegnanti, che è un blocco sociale che è la sinistra. Storicamente è un blocco sociale che storicamente ha votato Partito Democratico. Cordiali non vuol dire buoni, quindi. No, io continuo a dire che Renzi fa quasi sempre delle cose che io avrei fatto al suo posto, quindi l'ho sempre condiviso. Ovviamente non potrò mai far parte, come non mi è mai successo neanche in precedenza, di correnti, perché è proprio un problema di carattere. Io non riesco a stare dentro un gruppo, ma io amo il partito nel suo complesso e lì ho investito tutta la mia vita politica. E insisto, non ho mai fatto parte dell'area di Veltrone, di D'Alema, né di Bersani. Ho vissuto in maniera autonoma, capisco che questo è anche un privilegio che mi hanno concesso i pugliesi, quello di essere tanto autonomo. Però non ho mai utilizzato questa forza contro il Partito Democratico e non mi passa neanche per l'anticamera del cervello, anche perché da Presidente della Puglia io ho molto bisogno di Matteo Renzi, ho molto bisogno della Presidenza del Consiglio e del Governo nazionale, perché la Puglia ha tanti problemi e la collaborazione tra noi è centrale, oltre che doverosa alla stregua della Costituzione della Repubblica. Grazie, Michele Emiliano, neopresidente della Regione Puglia, e un augurio di buon lavoro, lo facciamo sempre ovviamente a chi si insedia. Buona giornata. Arrivederci. E siamo alla cronaca dall'estero con l'affondamento, il ribaltamento di un traghetto in Cina. Le vittime, i dispersi sono oltre 400. I soccorritori che stanno operando nel punto in cui si è inabissato il traghetto devono combattere contro il vento e la nebbia, oltre che contro il tempo, e nonostante le avverse condizioni meteo sono riusciti a portare in salvo altri 6 passeggeri rimasti intrappolati nel relitto della nave. Nelle immagini trasmesse dalle TV cinesi si vede l'imbarcazione adagiata su un fianco. L'acqua dello Yangtze in quel punto è profonda oltre 15 metri. Ieri notte imperversava una bufera. Delle 458 persone a bordo, molti erano anziani. Coloro che sono sopravvissuti hanno raccontato che l'imbarcazione è colata a picco in pochi minuti. Sul posto sono stati mobilitati oltre 2.000 tra militari e agenti, oltre 150 i mezzi coinvolti per il recupero. Le squadre di soccorso hanno sentito suoni provenire dall'interno del traghetto e battono con martelli sullo scafo cercando conferme all'ipotesi che provengano da persone intrappolate. Il traghetto stava facendo rotta da Nanchino a Chongqing, due metropoli nel sud-ovest della Cina. Tra le persone salvate, il capitano e l'ingegnere capo dell'imbarcazione. Prima di essere arrestati, hanno confermato che la nave è affondata rapidamente dopo essere stata investita improvvisamente dal ciclone. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli aggiornamenti sullo scandalo nella FIFA. Prima dirigenti e vicepresidenti, ora il numero due del governo del calcio mondiale. Jérôme Valque, il segretario generale della FIFA, avrebbe autorizzato il trasferimento da 10 milioni di dollari al centro dello scandalo delle tangenti che sta travolgendo la federazione calcistica mondiale. Per il New York Times sarebbe Valque ad aver autorizzato il pagamento dei fondi sul conto di Jack Warner, l'ex capo della CONCACAF, l'associazione calcistica per il Nord e il Centro America. La presunta tangente sarebbe stata pagata dal governo sudafricano per garantirsi l'organizzazione dei mondiali del 2010. Il Sudafrica ha ammesso il pagamento, così come ha fatto la stessa FIFA, ma entrambi hanno negato si trattasse di una tangente, ma fondi per lo sviluppo del calcio ai Caraibi. L'autorizzazione al pagamento è un punto centrale dell'indagine delle autorità statunitensi e porta sempre più vicino a Sepp Blatter, il presidente della FIFA. Valque è infatti il numero 2 dell'organizzazione. Al momento non è stato accusato ed ha anzi negato qualsiasi coinvolgimento o responsabilità. Come previsto, comunque, l'inchiesta va avanti. Nell'avvenuta rielezione di Blatter a presidente sembra poterla fermare. Dario Ricci, Radio 24 e Il Sole 24 Ore. Ci fermiamo, c'è la borsa e ci ritroviamo subito dopo. Non me lo posso permettere, quindi ti dico di no. Incidere il proprio primo disco, restaurare un monumento dimenticato, girare il film che si ha da anni nel cassetto, partecipare ad un progetto di ricerca scientifica, aprire un asilo nido, realizzare una app. Quanto costa finanziare un sogno? Tanto, ma se l'idea piace si può trovare l'aiuto di tanti. Sono Federico Taddia e vi aspetto ogni domenica alle 10.45 all'interno del programma Si può fare con Non me lo posso permettere, la vetrina del crowdfunding per raccontarvi i progetti più belli, creativi e innovativi. E non ci devo riflettere, te lo dico a chiare lettere, non me la posso permettere, quindi ti dico di no. Perché insieme si può fare. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'annuncio di Tsipras, abbiamo presentato una proposta ai creditori, ancora nessun dettaglio, nel frattempo salgono i rendimenti. Resta alta la tensione nel PD all'indomani del voto e attesa sul caso De Luca, lo avete sentito, Michele Emiliano poco fa ad effetto giorno, i rapporti con Renzi sono cordiali. Tragedia sul fiume Yangtze in Cina, ha affondato un traghetto, oltre 400 dispersi. Migliaia di persone in piazza per la parata militare del 2 giugno. Notizia di poco fa, secondo un settimanale tedesco, Helmut Kohl, l'ex cancelliere tedesco, leader della riunificazione, sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico di Heidelberg e ci sarebbe grande preoccupazione per la sua sorte. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E siamo, come si diceva, in diretta da Trento, dove si sta svolgendo, questa è l'ultima giornata del Festival dell'Economia. Abbiamo in studio con noi il presidente della provincia di Trento, Ugo Rossi. Buongiorno e benvenuto. Grazie, buongiorno a voi. Allora, mi sembra che complessivamente, anche a livello di riempimento e non solo, anche di qualità, questo festival stia andando bene, no? Sì, anch'io ho la stessa impressione. Naturalmente i numeri li vediamo poi alla fine, però insomma la città è molto piena, molto animata. Abbiamo avuto nomi di grande livello e penso che insomma sono state lanciate anche alcuni temi di grande attualità sul dibattito sull'economia in Italia, ma direi anche con un grande focus sull'Europa. Sì, è molto, molto centrale quest'anno il tema della meritocrazia e delle disuguaglianze. La vorrei però portare subito un po' più grezzamente sul piano della politica. Vorrei capire dal vostro osservatorio come leggete il risultato delle elezioni regionali che ci sono appena state. Insomma, il numero in realtà invece di comunali era piuttosto limitato, sì, e molte andranno al ballottaggio, quindi sì, una lettura chiara ancora non possiamo averla, però sulle regionali. Ma credo che anche lo stesso dato che molte vadano al ballottaggio indica che in relazione all'altro dato c'è naturalmente uno spostamento progressivo in termini di regioni dal centrodestra al centrosinistra, questo è assolutamente evidente, però è chiaro che il valore numerico poi dei voti è molto diverso rispetto al confronto con le europee, però le europee sono state delle elezioni, per così dire, anche senza nessuna alternativa reale e credibile. Le elezioni regionali invece conta molto la persona, il singolo progetto sulla singola regione, e quindi è chiaro che insomma, guardando un po' anche dentro l'evoluzione politica che il PD sta compiendo, si avverte chiara la necessità di un maggiore radicamento sul territorio e quindi di una certa anche difficoltà a tradurre sui territori il riformismo di Renzi, che pure secondo me però è la via giusta per un partito di centrosinistra. Questo dal suo punto di vista. Senta, da voi le amministrative, intendo come Trentino Alto Adige, si sono svolte 2 settimane prima e già là qualche tendenza si è vista, il morso della Lega, per così dire, se ci consente di dirla così, si è iniziato a sentire anche da voi. Ma da noi siamo abituati a queste oscillazioni della Lega che corrispondono esattamente esattamente, se andiamo indietro a vedere nel tempo, corrispondono esattamente alle difficoltà di progetto del centrodestra. La Lega colma lo spazio lasciato vuoto dall'assenza di un progetto di centrodestra e anche in Trentino non ha mai superato certe percentuali, quindi lo vedo abbastanza fisiologico in questo senso. Registro invece un altro dato che forse è comparabile un po' anche... però se mi permette, sì. Pur di protesta, questa volta il progetto politico di Salvini sembra più solido, sì, per certi aspetti. Però insomma in Trentino non c'è un comune che sia governato dalla Lega, questo è il dato, cioè in termini di percentuali possono esserci delle oscillazioni positive, anche molto positive in alcuni casi, però poi non si governa. Io invece vedo un elemento trentino che si ritrova un po' anche nel ragionamento che facevo prima, cioè un certo successo delle liste civiche e quindi la necessità sia in Trentino che, come ho detto prima, anche di aggiornare un pochino il progetto del centro-sinistra, che da noi è un centro-sinistra autonomista e che anche per questo motivo, insomma, alle ultime elezioni regionali ha avuto una percentuale del 58%, proprio perché accanto alla matrice, diciamo così, di centrosinistra c'è uno spazio elettorale occupato da forze politiche autonomiste che sanno interpretare anche questo civismo che insomma c'è nella politica di livello locale. Grazie ad Ugo Rossi, presidente della Provincia Autonoma di Trento, le auguro una buona giornata e buon lavoro ovviamente. Grazie altrettanto a voi. Traffico.